In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Avete trascorso un buon fine settimana? Io spero proprio di sì. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, questa è CRM, questa è Slalom, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. 0921 92 32 92 335 56 37 251 sono i due numeri telefonici che potete interagire per fare le vostre dediche e le vostre richieste. Partiamo subito con la musica, Black Eyed Peas. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. But dude get shut like Flavin' Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Credo che un po' tutti abbiamo visto le scene agghiaccianti che hanno trasmesso i vari telegiornali, e vedendo anche il tempo che abbiamo avuto qui in Sicilia sembravamo che eravamo proprio in un altro mondo. Ciao Daniela che va via, Daniela Zaga che vi ha tenuto compagnia. Vi ricordo che durante il corso di questa trasmissione avremo ospite sempre il nostro buon Michele Sarrica, che ci delizierà con la sua poesia, e poi intorno a mezzogiorno vi daremo i giusti consigli per quanto riguarda la cucina con il nostro chef Alessandro Orefice. Vi ricordo inoltre che all'interno del nostro sito www.crmhappyradio.it troverete l'opportunità per richiedere qualche brano, oppure tramite Facebook, che è la pagina che la conoscete già bene. Facebook è CRM Happy Radio. Mr. Oggi è il 7 novembre 2011, facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Ernesto, visto che la Chiesa Cattolica festeggia proprio Sant'Ernesto. Auguri anche a coloro che oggi compiono qualcosa, gli anni, una data importante da ricordare. Ricordiamo comunque i nativi importanti che ci dà internet, come Miriana Trevisan, che un po' non si vede più in giro, ma era famosa per la conduttura di Non è Rai. Poi il famoso... Eccolo qua. È partita una cosa che non doveva partire. Continuiamo con la musica. Stavamo dicendo dei nati oggi, che sono veramente tanti. I più importanti: Gigi Riva, Angelo Scola, cardinale patriarca di Venezia. Poi c'è Joni Mitchell, autrice e cantante. E poi gli importanti veramente che possono ritornarci in mente non ce ne sono. Continuiamo ancora con la musica. Adesso è la volta di un pezzo dance. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Nel 2002 il governo di Teheran vieta sull'intero territorio iraniano la pubblicità per qualunque prodotto statunitense. Dopo, pensate, 15 anni di non volo, l'Air France ripartono praticamente i voli del supersonico Concorde. Nel 1991 il campione di pallacanestro americano Howard Johnson, detto Magic, annuncia di essere risultato positivo al test sull'AIDS. Slalom. Flashback. Che risponde me perché, uh-oh, uh-oh, uh-oh. 883 che ci hanno fatto sentire questa nord, sud, ovest ed est. Adesso consigli commerciali, poi rientreremo in studio ascoltando una canzone di qualche anno fa. Quindi è l'occasione giusta per non cambiare. Slalom. Flashback. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. L'hai visto, sei cambiata, ti sei illuminata, è simpatia, non era vero, io sono tua, non era vero, la ra ra da ra ra, la ra ra. Guardo d'amore, la spada nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. Col sole tu vedi chi nasce e chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore, mi sento morire, morire per te. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Quasi prendo il treno e vengo da te. pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Stiamo cavalcando praticamente i successi di qualche anno fa di musica italiana, tra Little Tony e Adriano Celentano sicuramente ci hanno deliziato in quegli anni. Vi ricordo che siete sulla vostra radio, questa è CRM Happy Radio e questa è Slalom. Adesso consigli commerciali, il CRM Notizie, poi rientreremo in studio con una canzone che vi farà sognare. Slalom. Flashback. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.

È stato il singolo di lancio che in breve è diventato il hit planetaria per quanto riguarda Nathalie Imbruglia, figlia di un emigrante di Lipari, e questa mattina l'abbiamo rispolverato. Pensate, questa canzone ha raggiunto il secondo posto in Gran Bretagna, mentre negli Stati Uniti d'America è rimasto il singolo più suonato della radio per ben 11 settimane consecutivi. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Salutiamo Antonella Antonellina che ci ha richiesto questa canzone di Ligabue. Si intitola Il peso della valigia. Buon ascolto Antonella. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui. Ti è toccato partire bambina con una piccola valigia di cartone che hai cominciato a riempire. Due foglie di quella radura che non c'era già più, rossetti finti ad un astuccio di gemme, e la valigia ha cominciato a pesare. Dovevi ancora partire e gli occhi han preso il colore del cielo, la furia di guardarlo, e con quegli occhi ciò che vedevi nessuno può saperlo. E sole, pioggia, neve, tempesta sulla valigia e nella tua testa, e gambe per andare e bocca per baciare. Hai fatto

sapere parlare, sapere parlare. Proprio adesso che voglio soltanto morire, soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te nelle tue mani insistenti. Avrò cura di te ora che io so sentirti. Avrai cura di me perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti. Salutiamo Claudia che ci ha richiesto questa canzone di Adriano Celentano intitolata Non ti accorgevi di me. Ma lui è Ballotelli, Ballotelli Mario, il nostro Mario nazionale, ne combina sempre delle una, ma questa non è proprio una combinazione vera e propria, è un accoppiamento vero e proprio. Infatti Mario Ballotelli è diventato una vera e propria superstar oltre Manica, e come tale tutte le superstar vanno inserite nel grande mondo del gossip. La sua nuova fiamma si chiama Holly Anderson, è un'attrice di film a luce rossa piuttosto conosciuta in Inghilterra, una coppia che potenzialmente è esplosiva. Ecco perché si è scatenata una vera e propria caccia alle foto di Holly e Mario Ballotelli. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Continuiamo ancora con la musica di casa nostra, lo facciamo quest'oggi con questa bella quarantenne dal nome Giorgia. Ce l'ha richiesto Alessia, è l'amore che conta. Di errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Tempo ne ho perso, certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare senza pretesa. Go! È l'amore che conta, la canzone che abbiamo sentito questa mattina, richiesto da Alessia di Giorgia. Noi adesso vi diamo dei consigli commerciali e poi riprenderemo in studio con una canzone firmata. Slalom. Flashback. Time.

appesa nel vento, il suo nome è sentimento, stella d'argento, sono contento. Tu m'hai portato nella mano in cima al mondo, stiamo a vedere quando uscirà, con gli occhi cosa ci domanderà. Ma il tempo, tempo che non passa mai, ci cercò, ci trovò. Ma noi chi siamo? Che ci facciamo? Cosa vendiamo delle cose che più amiamo? Per stare soli in mezzo al mare, con la paura ogni tanto di affogare. Diceva Ulisse, chi non fa fa la strana idea che c'ho di libertà. Slalom Flashback. Un angolo di cielo e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Da 5 giorni due alpinisti sono bloccati a quota 4.000 metri sul Monte Bianco. Infatti Oliver Sarz, una guida alpina abbastanza esperta, non ha tenuto presente le previsioni del tempo e si è ritrovato a quota 4.000 metri. I soccorritori non mollano, però sicuramente non è un buon caso da risolvere, e così via. Continuiamo con la musica. I'm gets a brain, she will enter through your vein. C'è il duo siciliano Alfano e Schifani al vertice del governo e del PDL fra le ipotesi del dopo Berlusconi. 350 ragioni per evitare le urne. Ora capiremo qual è realmente la notizia, perché magari questa è una notizia di testata e sembra chissà quale possa essere. Continuiamo, ma prima consigli commerciali e ripartiremo sempre con la musica. Targata. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Canta un vecchio blues, canta per il calore. pure per il suo cane, che ride e dice divertente. Sol Express, una nota per bandiera, Sol Express, poche luci per la sera. Sol Express, aria cruda e vento caldo. Sol Express, Sol Express, Sol Express, di Sol Express. Slalom. Flashback. Somewhere out. Quindi, come dicevamo prima, c'è un ticket Alfano e Schifani al vertice del governo e del PDL, fra le ipotesi di queste turbolente giornate politiche. Quindi questi due siciliani in testa, uno al partito, quindi Angelino Alfano, l'altro a capo di un governo istituzionale di grande intese e anche un po' di grande confusione. Tra notizie curiose, idee e tanta musica. Fra due anni, come per tutto questo tempo? Ci ammuffiamo a stare dentro questo CD tutto questo tempo. Grazie comunque, ciao da parte nostra. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. L'appuntamento è quello classico, quello di tutte le occasioni che noi ci sentiamo, ci incontriamo radiofonicamente, è quello di avere ospite, anche per quest'oggi, perché ci fa estremamente piacere, il nostro poeta Michele Sarica. Ciao Michele! Ciao Francesco, ciao a tutti i tuoi amici radioascoltatori di CRM Radio e Radio. Ok. Vedi, ho imparato bene. Come stai innanzitutto? Ma io sto bene, guarda, con un tempo così, una giornata così favolosa, come si fa a stare male? Ma cioè, mi dispiace per quelli che purtroppo soffrono fisicamente, che hanno dei problemi. Stamattina proprio parlavamo di questo, io ho iniziato la trasmissione dicendo noi abbiamo qui, ringraziando il buon Dio, un bellissimo tempo, un mare stupendo e così via, stupendo. Però al nord, ahimè. Le notizie che arrivano da Genova, non sono assolutamente, ma anche dalla Campania, che comunque non è poi così tanto distante, non sono per nulla confortanti, ecco. Ma tanto per dirtene una che mi tocca da vicino, io ho detto, un mio figlio che adesso lavora a Torino, mm-hmm. in questo frangente, e ieri sera, siccome lavora in un night, ieri sera il proprietario, vedendo la situazione com'era, da premettere che c'è l'allerta, sì. ma siccome lui è nella cintura un po' fuori dalla portata, diciamo, del Po, ma il proprietario comunque a un certo punto ha chiuso e quindi ha detto ragazzi a tutti a casa perché non è la serata adatta, e mi diceva che non aveva smesso da 4 giorni di piovere. Quindi immagina un po' la situazione com'è, lì ai Murazzi, in via Piazza Vittoria, dove diciamo sia la vita, la sera tutti i ragazzi si riuniscono, locali, notturni, eccetera, eccetera, purtroppo tutto chiuso, perché il livello del fiume si è alzato di ben 5 metri. Quindi penso un po' alla paura che c'è in questo momento. Io che ho vissuto Torino so che cosa significa, diciamo, una cosa del genere, come la paura. Quindi quando comincia a piovere, ecco, inizia e non la smette più. Ma io sono del parere che comunque se malauguratamente facesse la stessa identità di pioggia che fa al nord qui in Sicilia, noi andremmo veramente sott'acqua. Guarda, ci dovremmo comprare tutte le bombole come minimo. No, veramente, anche perché qui rispetto al nord non abbiamo così tanti fiumi e così via. Però abbiamo un abusivismo edilizio che ha un po' devastato quelle che sono le situazioni delle campagne, dei fiumi, dei torrenti, dei cosiddetti sfoghi dei terreni quando certo, c'era tanta acqua. Certo, se noi ci mentifichiamo tutto è chiaro, questa acqua dove deve andare. Abbiamo un po' modificato. Uno sfogo deve pure avere questa acqua. Quindi è normalissimo. Negli anni 60, quando si costruiva in maniera abusiva proprio a cielo aperto, possiamo dire, certo si è fatto molto danno, si continua a farlo, ma purtroppo sai, queste sono cose che poi ripaghiamo tutti. Purtroppo sì, devo essere sincero, dico. Allora, Michele. Perché? Sì, dimmi. Io volevo, queste sono le notizie che ci toccano in prima persona, ci toccano perché comunque quando vengono a mancare per queste sciagure causate da noi stessi, ci fa ancora più rabbia. Indubbiamente c'è un bel video che però adesso gira su internet, l'ho condiviso anch'io su Facebook. Mm-hmm. Quella bambina, non ricordo adesso il nome, che comunque all'ONU ha tenuto un discorso di 6 minuti, cioè la bambina che ha tenuto il mondo in sospeso. Sì, l'ho letto. E fa un discorso bellissimo, dove alla fine dice ai signori rappresentanti politici del mondo, ecco, voi dovreste agire così come parlate, mentre invece non lo fate, parlate bene ma razzolate male, è questo, e voi siete capaci di ricucire l'ozono? Il buco dell'ozono, non siete capaci, siete capaci di, ecco questo, quindi noi siamo capaci soltanto di distruggere? È una domanda questa, perché non pensiamo anche a ricostruire, a costruire bene per i nostri figli? Dobbiamo pensare che il futuro sono loro, il mondo non ci appartiene, noi siamo di passaggio, lo dobbiamo lasciare a loro. e lo dobbiamo scegliere nelle migliori condizioni possibili, non che se i ragazzi si troveranno, lasciamo stare i debiti economici e quello che c'è di brutto in politica e in società, ma anche questo fatto, cioè, devono pensare a risanare un ambiente naturale che noi abbiamo devastato, gli abbiamo sottratto, rubato, mortificato. Questa è la cosa tragica. Se i ragazzi domani diranno, ma cosa dovranno dire di noi? Cosa ci dovranno raccontare? Cosa ci hanno lasciato? I pulsantini delle bombe atomiche messe lì, tutti pronti per esplodere? Beh, qui dovremmo fare veramente un discorso lunghissimo e complicatissimo, che ci perderemo veramente. Sicuramente, però sai, sono quegli sfoghi di persone come sì, noi, vero. Persone normali, che se vedono la televisione, leggono il giornale così, e leggono queste cose, no? E tu dici, ma per la miseria, ma com'è possibile che la storia non insegni niente, non ci porta a rivederci l'esperienza che nei secoli si è fatta e che si continua a fare? La ripetiamo, la storia che si ripete, tutto, guarda, è una cosa, l'umanità non lo so, di umanità, no? Di umanità l'uomo non ha proprio niente. Cioè, mi rendo conto di questo, è brutto dirlo, ma guarda che c'è poca umanità nell'uomo. Oggi teniamo tutti i nostri interessi, il nostro egocentrismo, il nostro egoismo, siamo tutti presi, compresi nel nostro ruolo di piccoli duci, ma questa non è vita, questa non è vita, questo è il negativo della vita, questo non significa vivere. Michele, senti, io apprezzo moltissimo le tue parole, perché sono comunque abbastanza profonda, poi dico da persona comune, noi giudichiamo quello che sentiamo, quello che si fa, quello che purtroppo sentiamo quotidianamente nei telegiornali, nei vari sistemi di informazione. Purtroppo rimaniamo un pochettino a bocca aperta, perché ti devo dire, e chiudiamo questa parentesi e parliamo di poesia, che è sicuramente un argomento, non dico ma ci può un attimo rilassare, alleviare un pochettino le sofferenze psicologiche, ecco, vediamo. Perché effettivamente vedendo quelle immagini era veramente da vedere, da rabbrividire. Proprio. Allora, parliamo di poesia, che è una delle cose che ci mette sicuramente più a nostro agio e ci mette un po' più serenità nel nostro cuore. Guarda, visto che abbiamo parlato un po' di tutta questa situazione un po' drammatica, ecco, parliamo invece del rovescio di questa medaglia, parliamo dell'amore. Ecco. Cioè, l'amore, in definitiva, io ho tirato fuori col lavoro, stamattina mi è venuto in mente di prendere questa cosa, perché penso che l'amore sia la nostra ancora di salvezza, la nostra nave che ci salverà, perché l'uomo si salverà chiaramente, tranne che la sua stupidità, perché di questo si tratta. Oggi noi la razza umana non sparirà per il fatto che abbiamo, uno di noi dice, Zichichi, il professor Zichichi dice che abbiamo 300 kg di ritolo sotto il letto, compresi i bambini e i neonati, per parlare del potenziale di distruzione che c'è nel mondo. Ognuno di noi ha 300 kg di tritolo. Che è una bella quantità. Cioè, praticamente lui dice, sostiene che noi oggi si potrebbe distruggere il mondo 3 volte. Non una volta soltanto, 3 volte. Quindi, parlare invece del rovescio di questa medaglia, parlare dell'amore, che cosa possiamo intendere per amore, per quel sentimento che potrebbe salvarci se l'uomo non adopera la sua stupidità ma la sua intelligenza, perché soltanto di stupidità si può morire, può sparire la razza umana. E l'amore, tu cosa ne pensi per esempio dell'amore? Faccio io l'intervistatore. Ma io credo che sia uno dei sentimenti più importanti al mondo e che è quello che muove tutto il mondo. Bellissimo. Cioè, se non ci fosse questo, io credo che sia l'uomo che la donna non potrebbero esistere. Certo. Del resto si fa tutto per amore. Io non credo che ci sia un volano di forza così importante come l'amore. Bellissimo. Cioè, senza di esso noi non facciamo nulla, noi non usciamo per lavorare, non coltiviamo la terra, non portiamo i bimbi a scuola, non leggiamo. Se non c'è di base l'amore vero e proprio per una persona, un oggetto, un modo di fare, un hobby e così via, non faremo nulla. Quindi per me è un volano di noi esseri umani. Ma noi ci pensiamo che siamo stati fatti con amore e per amore, quindi è chiaro quello che tu hai detto, ecco, l'hai detto in maniera molto bella e molto poetica, anzi ti faccio tanti complimenti. E quindi questa è la cosa che pratica con lo zoppo all'anno zoppi, io sono felice di questo, guarda, essere un tuo prefatore per esempio sarebbe una cosa bellissima. Ecco, c'è cioè una pubblicazione, Michele Sardi che mi fa la prefazione, grazie, gentilissimo, sarei felicissimo. Io termino invece leggendo di questa poesia, e così proprio che parla dell'amore, l'amore è, cioè come la vedo io, come vedo io questo sentimento. Ok. Allora... dopo le tue bellissime parole, spero che le mie siano altrettanto degne comunque. Va bene, noi poi ci sentiamo venerdì, perché io mercoledì ho una cosa fuori Palermo da fare. Sarà sempre un grande piacere per me. Farmi ascoltare da te e dai tuoi amici radioascoltatori di CRM e Radio. Ok. Vai Michele. L'amore è una catena di emozioni, un intreccio di sguardi e di parole, di sogni e di sospiri, d'un pizzico di sale e un grammo di follia. La sua malia fa grande questa terra. Con la sola forza del pensiero tiene unito il mondo ai nostri passi, ai nostri figli, ad ogni uomo e ad ogni filo d'erba. È un intrigo di petali e di spine, di incontri e di battaglie, di zucchero e veleno. L'amore è una dolcissima catena. Parte dal cuore per arrivare dove comincia il sole, dove il silenzio è l'abbecedario di tutte le parole. Quando l'incontri nelle tue foschie, lungo i binari di un qualsiasi giorno, lo riconosci subito l'amore. Sulle labbra all'essenza della vita e fra le mani l'aroma del futuro, ha negli occhi la nuova primavera. L'amore è la carezza che ci porge Dio con l'alito del vento, la sorgente che ci dona Dio con la sua rugiada, la dolcezza che ci offre Dio porgendoci il suo pane. L'amore è un'invisibile catena che tiene unito il mondo all'universo. Grazie e buongiorno. Tra notizie curiose, idee e tanta musica. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Ci è venuto a trovare telefonicamente, giustamente, il nostro caro amico Alessandro, che ci darà i giusti consigli per oggi a pranzo. Ciao Alessandro! Buongiorno a tutti! Allora, oggi hai trascorso innanzitutto un buon fine settimana? Abbastanza bello. Oh, anche perché il tempo ci ha accompagnato bene. Il tempo ci ha accompagnato, per fortuna. Rivolgiamo un minimo di pensiero alle persone che in questo momento chiaramente stanno abbastanza peggio di noi, e che il Signore gli dia il giusto aiuto per superare questo brutto periodo, ecco. Allora, Alessandro, cosa ci hai preparato per oggi? Cosa ci preparerai e cosa ci consiglierai per quest'oggi? Allora, oggi facciamo un primo piatto, molto molto veloce, però nello stesso tempo molto saporito. Andremo a preparare delle linguine con del pesce spada, pomodorini e mentuccia fresca. Il modo molto molto veloce di eseguire questo piatto è mettere a scaldare una padella, dove andremo a mettere un paio di spicchi d'aglio, dell'olio extravergine di oliva, lo lasceremo rosolare, non appena imbiondito lo tireremo via e andremo a mettere subito i tocchetti di pesce spada. Do una massima in termini di quantità: per la preparazione di 4 razioni di linguine basteranno 200 grammi di pesce spada tagliato a dadini, altrettanto 200 grammi, perché la proporzione bella è quella di fare sia pomodorini che pesce spada alla pari in termini di quantità. E andremo a mettere appunto il pesce spada nel fondo che avevamo precedentemente preparato con il nostro aglio e l'olio extravergine, e lasceremo imbiondire. Una volta rosolato, bagneremo il tutto con un bicchiere di vino bianco, lo lasceremo sfumare e in seguito aggiungeremo immediatamente delle foglie di menta fresca. Potete tranquillamente abbondare, in quanto è un piatto che più menta abbiamo, più profumato poi alla fine riesce. Una volta fatta questa operazione andremo a mettere i nostri pomodorini tagliati in 4 possibilmente, per velocizzare un momentino la cottura degli stessi, e andremo a far cucinare all'incirca per 15 minuti. Andremo a condire con del sale, del pepe e, importantissimo, un cucchiaio di zucchero. Molti non lo preferiscono, però il fatto di utilizzare i pomodorini non sempre poi alla fine risultano essere dolci, quindi per metterci al sicuro andremo a mettere questo cucchiaio di zucchero. Faremo, come dicevo prima, cucinare all'incirca per 15 minuti e poi andremo a mettere la nostra pentola con la pasta, butteremo giù le nostre linguine, a cottura ultimata uniremo la salsa con le linguine, la lasciamo spadellare per altrettanti 2 minuti e andremo a servire in un piatto ben caldo. Ma ovviamente la guarnizione che metteremo sopra sono delle belle foglie di menta fresca, e con questo vi auguro il mio solito e consueto buon appetito a tutti. Ok, Alessandro, noi ci sentiamo venerdì, perché come già detto ad altri che hanno partecipato a questa trasmissione, io mercoledì ho un impegno fuori Palermo, e quindi venerdì ci delizierai anche con un altro piatto. Va benissimo. Ciao Alessandro, e tante cose, buona vita. A tutti gli ascoltatori e buona giornata. Ciao Alessandro, buon appetito. Ciao, ciao. Ciao. Your life. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Peter Cincotta insieme per proporci questo bel pezzo abbastanza in linea con la nostra radio, bello movimentato, In cerca di te. Vi ricordo gli appuntamenti quotidiani, dopo di me ci sarà Qua e Là, poi On the Road, Toc Toc, Day by Day e poi Edicola Pettegola. Ancora musica italiana. Perché il rosso era per me l'irraggiungibile che sempre mi inganno. Sto qui, il cuore lento di diavolo fragile, così il sole aspetta che abbassi la mia testa e il toreador colpisca. Così l'attesa su di me, silenzio immobile, adesso sono Siamo al giro di boa, quasi in conclusione. Abbiamo sentito Marco Mengoni con questa canzone intitolata Solo. Salutiamo comunque la nostra Bruna che ce l'ha richiesto. Ciao Bruna, buon ascolto. E che dire, io veramente l'altro giorno casualmente mi è capitato di vedere 5 minuti di Amici, la trasmissione dove vengono fuori tutti questi personaggi, questi bravi ragazzi fra l'altra cosa, e sono pazzeschi, micidiali, cioè il giudizio che hanno proprio istantaneamente ti fanno rabboccare la pelle, perché ti dicono: l'altro giorno c'era una ragazza che stava proprio cantando una specie di lirica, e così per me era brava, ma Zerbi gli ha detto: ma questa è lirica? Cioè, sono rimasto malissimo. Vasco Rossi. Noi siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo, grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi senza complicazioni. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi. Siamo liberi, liberi, liberi di sognare, liberi di fare tante cose. Così cantava Vasco Rossi quest'oggi alle 12.49 in diretta di CRM Happy Radio, la radio vostra, quella che preferite tra tutte le altre radio. E che bello questa. 0921 92 32 92 335 56 37 251. Salutiamo Martina che ci ha richiesto questa nuova canzone di Emma Marrone. La stessa stanza caldissima, senti la pioggia che rumore fa, ancora nel mio letto tu cosa fai? Così innocentemente, ma innocente non sei. Come me, come tutte le scelte, come tutte le volte. Sogno dolcissimo, da sempre sull'orlo, sempre in bilico, tu offri parole come fossero fiori, è un vento di scirocco, ti trascini fuori. Come fai? Come un ladro di notte apri tutte le porte. Beh, io dico che questa è veramente bella, questa canzone di Emma Marrone, che ha azzeccato nuovamente il sound giusto tra passione e lacrime, la canzone che abbiamo sentito quest'oggi proprio fresca fresca, richiesta al nostro numero telefonico da Martina. E qui in queste ultime note di questa canzone Francesco Puglisi si congeda da voi, vi ringrazia di averlo seguito e vi rinnova l'appuntamento a venerdì, sempre stessa radio, stessa frequenza e stesso tutto. Buona vita a tutti e se il buon Dio lo vorrà, ci sentiamo venerdì mattina. Non piangerò mai sul denaro che spendo e ne riavrò certo di più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho e forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te.